dalla casa e ne venendo spingolo francese. Mi chiama una figliola trasa trasa, quanta spingola dai per tornese. Di chi sei tu mi dai tre quattro vasi, te rongo tutte spingolo francese. Pizze che vaso non fanno portose, e poi diendere spingolo paese, e poi diendere spingolo paese. E io che sono una poca paziosa, sopra da mamma un cade in tasta casa. A chi va belli spingo la francese, a chi va belli spingo la chi va. E io che sono una poca paziosa, sopra da mamma un cade in tasta casa. A chi va belli spingo la francese, a chi va belli spingo la chi. Dicette cor mia che stio paese, che si te proro naso moraccise. Dicette cor mia che stio paese, che si te proro naso moraccise. E rispondette a già pazienza scusa, a tenga innamorata sto paese. E rispondette a già pazienza scusa, a tenga innamorata sto paese. A tenga innamorata sto paese. E te una faccia come frunne rose, e te una bocca come una cerasa. A chi va belle spingo la francese, a chi va belle spingo la chi va. E te una faccia come frunne rose, e te una bocca come una cerasa. A chi va belle spingo la francese, a chi va belle spingo la chi va. Faccia come frunne rosa, e te una bocca come una cerasa. A chi va belli spinga la francese, a chi va belli spinga la chi va. E te una faccia come frunne rosa, e te una bocca come una cerasa. A chi va belli spinga la francese, a chi va belli spinga la chi va.